Friuli nel mondo. 159esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canzoni friulane moderne. Vi dedichiamo, cari amici radioascoltatori, l'ultimo mazzetto di canzoni che musicisti e parolieri friulani hanno composto per il Festival 1966 di Pradamano. Nell'interpretazione di giovani cantanti dilettanti, ai quali il pubblico seppe dimostrare, pur nella logica loro impreparazione vocale, tanta simpatia, eccovi con il quintetto I Gabbiani, diretto da Antonio Genovese, e con il complesso vocale diretto da Olinto Contardo, Luigina Fasano che canta Duar Pipin di Lucia Scozziero e Pia Carminati. Duar Pipin, voli di mame, il mio segno del toni, sotto la luce del lune nove, duc il monte. Campane no dindone, luce luta al stacidì, si arei voi amor de mame, che ye ore mio pipì. Mine nane, la campane no se no, mine nane, sot la luce, scone per i no, e tu lune curiosone, tul torrai nostra spia, se anche voi per i nonane, di sicura dormirà. Di nonane, sottolone, in te scone per i no. Nine nane, in te scune per io. E con l'orchestra della canzone friulana, diretta da Franco Russo, Franca Parente che interpreta Torne di Angelo Felci. Il sole vibrare Fabio Magris, che esegue A scosso là, di Michelutti e Gino Murero. Benedete che usanze di là in file a scosso là, tra panoli in bondanza e fruttati di un cent'anni, in tal miezi e nani muti che non fa il sospirare. O scosoli nel panore, senza lui e sbadiare, ma che il cuore che cura sere, io non ridi a scosolare. O scosoli nel panore, senza lui e sbadiare, insegnaimi la maniera di poter scosolà. E ciante mezza dutis, e ducquannus astriat, che musute che smanutis, vienio non undam pas. Duci voi son chiamite, contentansi di cialà. O scosoli mil panolis, senza lui e sfadia, ma che il cur la sere, io non ridi a scosolà. Ciante miezza dutis, iedus quannus astriat, che musute, che smanutis, dienio non undam pas. Duci voi son chianimite, contentansi di cialà. O scosoli mil panolis, senza lui e sfadia, insegnaimi la maniere di poterlo scosolà. Ed infine Adriana Pozzetto, che canta Come lagrimis di Stelis, di Federica e Aurelio Cantoni. stays. Your sympathy de vite me alis d'amor cirit chia tai il clar de vite me. Grazie. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.